America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I believe that at this moment we all face a choice. We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration, or we can retreat into a world sharply divided. Barack Obama, siamo arrivati al momento fatidico, il grande congedo dal palcoscenico globale di questo presidente americano storico. Un messaggio, tra l'altro, questo che vi ho fatto ascoltare, molto importante sul piano dell'eredità politica, perché dice Obama: in questo momento difficile dobbiamo fare una scelta, continuare ad andare avanti lungo la strada della collaborazione e dell'integrazione, oppure tornare indietro in un mondo profondamente diviso e in conflitto. Insomma, è la carta del multilateralismo. Il multilateralismo è chiave, in sostanza, dice Obama. Ecco, devo dire, c'era molta emozione, anche perché fra le centinaia di delegazioni che appunto sono giunte da ogni angolo del mondo, ci si è resi conto che l'America, quella stessa America che ha mandato alla Casa Bianca il primo presidente afroamericano, ecco, quella stessa America appena 8 anni dopo potrebbe invece essere davanti a un'altra svolta elettorale storica, questa volta però per la chiusura contro la tradizionale, proverbiale, radicata apertura americana. Ecco, sappiamo che un po' dappertutto ci si confronta con nuovi autoritarismi, populismi, spesso, come dire, elementari. Non avevamo immaginato che questi populismi potessero arrivare anche qui negli Stati Uniti d'America. Dunque, ci sono due temi centrali fra i mille rivoli di questo discorso di Obama, perché ha parlato di un rischio Russia, ha mandato messaggi alla Cina e così via, così via. Vi dicevo, due punti secondo me importanti. Sentiamo il primo. The integration of our global economy has made life better for billions of men, women and children. Over the last 25 years, the number of people living in extreme poverty has been cut from nearly 40% of humanity to under 10%. Ecco, Obama dice: l'interazione di un'economia globale ha reso la vita migliore per miliardi di persone. Cioè, questo la gente lo ignora. Donne, bambini stanno meglio. Nel corso degli ultimi 25 anni il numero di persone che vive in condizioni di estrema povertà si è ridotto dal 40% a meno del 10%, un dato senza precedenti. E non è un numero astratto, parliamo della vita di donne e di bambini. Ecco, in questo caso Obama parla di globalizzazione. La globalizzazione è l'inevitabilità del multilateralismo appunto per gestirla, e questo messaggio anche per chi fra noi deride le complessità burocratiche delle istituzioni multilaterali senza però poi capirne o apprezzarne le qualità. E questo messaggio appunto del presidente secondo me è importante. Il secondo poi è il corollario del primo, perché senza sviluppo, senza gli aiuti per lo sviluppo per i paesi più poveri, rischiamo di avere migrazioni di massa. Mi ricordo che Jim Wolfensohn anni fa era presidente della Banca Mondiale, mi preannunciò ed erano tempi non sospetti, vi parlo forse di 10-15 anni fa, il pericolo di una marcia di decine di milioni di persone, di un esodo biblico verso l'Europa. Ecco, immaginate se questo dovesse capitare. Allora che si fa? 100.000 persone, 150.000 persone, va bene, ma 2 milioni, 5 milioni, 10 milioni? Ecco, Obama ha ripetuto in qualche modo questo messaggio con un senso di allarme, perché ha detto che l'alternativa allo sviluppo e alla cooperazione per lo sviluppo saranno emigrazioni di massa, carestie, guerre crudeli. Insomma, c'è molto di cui riflettere, e queste riflessioni ci hanno poi portato vicini a casa, perché queste sono riflessioni che ci riguardano direttamente. L'Italia è un po' la prima frontiera per i flussi migratori, e di questo ha parlato il Presidente del Consiglio delle Nazioni Unite ieri sera, ma è stato l'ultimo intervento di una serie di apparizioni al Council on Foreign Relations, a una riunione organizzata da Barack Obama sull'immigrazione dove hanno partecipato 50 paesi, dove ha parlato anche Renzi impegnandosi ad aumentare del 30% gli stanziamenti per le azioni umanitarie. Ma sentiamo Renzi. Queste persone scappano esattamente da quelle guerre e da quel radicalismo che crea i danni che conosciamo. Poi però c'è un problema più grande, ed è quello di riuscire a gestire in modo diverso la questione africana. Noi torniamo all'ONU ribadendo questo punto. Ecco, Renzi fa riferimento proprio al rischio di un'immigrazione eccessiva e al controllo intelligente dei flussi migratori, soprattutto quelli in arrivo dall'Africa, che per noi sono quelli più importanti. E devo dire, questa tematica è stata un po' un motivo ricorrente nel viaggio intenso, devo dire molto intenso, di Renzi qui a New York. Perché l'Africa è al centro di quella sequenza sviluppo, crescita, occupazione, stabilità, declino dei flussi migratori. Lavorare con l'Africa, mettere a punto programmi di sviluppo, erogare fondi per la cooperazione, ci consentirà, attenzione, non solo di creare le condizioni perché l'immigrazione strutturale diminuisca, ma ci darà nuovi sbocchi per investimenti, scambi commerciali, insomma, per aiutare i nostri tassi di crescita europei. Ecco, devo dire, c'è molto disappunto perché in questo l'Europa è indietro. Pensate, a New York ci sono incontri dedicati all'Africa, per esempio uno oggi, fra poche ore, organizzato da Bloomberg, dove parlerà anche Barack Obama. Ci sono iniziative della Cina e degli Stati Uniti per cercare di conquistare in qualche modo il territorio africano. L'Europa sta ferma. Ecco, devo dire, questo è molto deludente, perché l'Europa, per prima, che si trova in difficoltà nel post-Brexit, dovrebbe recepire il messaggio per il multilateralismo. Beh, chiudo su una nota tra virgolette leggera. Per Renzi ci sono stati una serie di eventi, per esempio il premio cittadino globale 2016 dell'Atlantic Council, dove Renzi ha raccolto tra l'altro elogi molto molto forti da parte del segretario di Stato John Kerry. C'è stato poi un intervento ieri pomeriggio al Council on Foreign Relations. Ecco, qui cambia leggermente lo sfondo, perché mi sono accorto che investitori americani, banchieri, imprenditori, oltre che politologi e giornalisti, avvocati, eccetera, sono molto interessati a quello che capita in Italia e a quello che capita attorno a questo referendum in arrivo, perché hanno la sensazione che se il referendum va male, il governo Renzi si indebolisce e si torna a quel valzer delle poltrone per cui l'Italia è proverbialmente conosciuta, e devo dire un valzer di poltrone che sicuramente ci indebolisce invece che rafforzarci. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi la dedichiamo al futuro, alla speranza, la dedichiamo a Barack Obama, che ha cercato di darci una visione più ottimistica. Non smettere di pensare al domani, perché il passato è alle spalle. Canzone del giorno dunque, Don't Stop, Non Fermatevi, dei Fleetwood Mac. Al palazzo di vetro è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.